Emanuele uscì di casa con il suo ombrello rosso. La pioggia cadeva forte, ma lui decise di andare lo stesso al parco. Lungo la strada, trovò un gattino bagnato sotto una panchina e lo avvolse nel suo cappotto. Quando arrivò al parco, vide un arcobaleno splendido nel cielo. Tornò a casa felice, sapendo che quel giorno di pioggia era diventato una piccola avventura speciale.